pensa di solito del suo tempo, gli chiede invece di moderarmi, ecco, di insegnarmi più se io sto per esempio la mia mezz'ora. Saluto velocemente la dottoressa Bellice, diciamo la professionale, che rappresenta la dottoressa Bellice, sapete, responsabile nella territorio della prima collocazione della sala delle scuole, naturalmente anche del formale dell'ufficio formazione. E ringrazio anche la Francesca Musetti e la Valta Medici, sono già le due pezzi che stamattina quando ho ringraziato ancora non erano attive e invece si sono andate nel frattempo. Chico Salvico, direttore del nostro dipartimento, è sempre bloccato nella tragedia di Milano, perché non arriva a Francescato, saluta, teme che non riuscirà ad arrivare, e l'ultimo saluto lo devo a un po' di Erano Pilato, direttore dell'Alto che si campana, ma soprattutto direttore del Dipartimento Ferrari, direttore del Dipartimento di Centro Primitivo dell'Università di Ferrari. Poi magari si dice qualche cosa per cui è stato detto di piacere, quindi forse su questa consentina, quanto sia necessario. Chiuso con la parete che saluti vado al mio contributo. E, come dicevo già all'inizio, potrebbe contribuire a completare il quadro fornito da Alessandro sul versante della didattica. E il discorso parte esattamente da dove Antonietti ha concluso il suo. Mi piace incorniciare la rima nella prospettiva dei racconti di emancipazione. Dove sono i racconti di emancipazione? Sono i racconti di cui è popolata la vita delle tecnologie, storicamente parlando, nella logica della loro introduzione. Quando una nuova tecnologia compare all'orizzonte, di solito è accompagnata da un racconto di emancipazione. Questi racconti di emancipazione possono essere prodotti o da coloro stessi che hanno costruito la tecnologia, le ragioni sono chiare, tipo acciaio sostanzialmente, oppure perché i conti possono essere prodotti dalla fantascienza, dalla letteratura. Quanti bellissimi racconti di emancipazione sono stati prodotti attorno a virtuale del trasporto, piuttosto che alla possibilità della comunicazione a distanza, che poi nel giro di pochi o tanti anni si sono trasformati in realtà. Ma i racconti di emancipazione sono spessissimi prodotti anche dalla scienza. Per tutta una serie di ragioni che si potrebbero approcciare anche dal punto di vista epistemologico. Potrebbe tornare anche qui, pensiamo alla scienza come attività discorsiva. Secondo la prospettiva, non molto dura, un po' ma libera, anzi, debole, però ha trovato come dire, seguito e rispondenza ai discorsi precedenti. Qual è il compito che questi racconti di emancipazione hanno? E è un compito triplice, e il triplice compito lo si costruisce mettendo in sequenza le tre funzioni. Prima ragione, devono introdurre la fantasia, perché è il momento in cui viene collocata in un contesto sociale nuova. E se io non la introduco attraverso dei racconti che ne favoriscono la distribuzione, difficilmente prende la vita. Dopo averla introdotta, lavora solo da determinare il significato, i racconti non ci potrebbero dare un proprio significato alla tecnologia di quello che normalmente non abbia. Nel momento in cui si è soprattutto il significato, si innesca il loop che comincia a far circolare la tecnologia. Dal punto di vista di emancipazione ha finito il suo compito, perché la tecnologia è entrata, ma anche le sue gambe, e magari anche attraverso la notizia che corre di bocca in bocca, lo scambio di esperienza, si fa circolare la sua. E qui ragioniamo, preparando questo intervento, su quale sia il racconto della vita. Secondo me il racconto della vita è un racconto che si organizza attorno a tre temi che sono la scuola, il cambiamento. bello che funziona bene nella nostra vita, quindi ci sono anche altri non di emancipazione costruiti sulla scuola, sul cambiamento, sull'università di l'altra, che sembra invece prospettare un scenario completamente diverso. E quindi la cosa di emancipazione dice la scuola che è vecchia, desueta e inerte rispetto al cambiamento, grazie alla vita, cambia, si innova e produce cose meravigliose. A questo punto mi faccio alcune domande su questo racconto di emancipazione. E le domande sono relative proprio alla innovazione della didattica, al ruolo dell'innovazione della didattica. Mi chiedo ad esempio se è un passo altro che accompagnare e amplificare le riflessioni di Alessandro, è una questione di strumenti. È una questione di strumenti, di innovazione della realtà. È una questione di informatica tecnologica. È una questione di ambienti, di set, la classe che deve cambiare, che deve trasformarsi, che deve mutare la propria organizzazione. È una questione di ristrutturazione del lavoro scolastico, cioè di rottura delle pratiche consolidate della didattica. È una questione di rendere tutto formale, l'educazione formale, in realtà per dire tutti, se si divertono, si motivano, e se si motivano sono contentissimi e apprendono con facilità. Sono un po' le stesse domande che con gli amici, in un gruppo di lavoro, con gli insegnanti, a capo ci siete vedete che vedrete oggi pomeriggio, noi parteciperà al suo laboratorio, annualmente danno vita a questo convegno, siamo delle esperienze che si chiamano gli anni superiors. Lì mi avevano invitato per parlare della classe 2.0. Io sostanzialmente mi sentivo di pormi esattamente queste domande, che sono le domande che mi pongo nel momento in cui penso alla didattica, scusate, alla linea di prospettiva didattica. Perdonate la scarsa organizzazione dell'animazione, ma io lavoro con le notte sul momento in cui leggo con PowerPoint e cambio le cose. Allora, per rispondere a quelle domande vi dicevo, posso fare, se mi passate il termine, lezione 1.0 con la linea? Cioè, posso cambiare tutto perché non cambi niente? Sì, posso. E ragiono su 5 delle moltissime caratteristiche che la lezione con la lima potrebbe mantenere rispetto alla lezione senza lima. Può permanere la frontalità con la lima, sì. E l'impostazione qual è della pratica maestra del tempo di luce? Tranquillamente. La luce di questa è stata diversa, la conferma. L'istituzione di un sistema di lavoro che è basato sull'esecuzione dei compiti, lo rompo? No, potrei continuare a ragionare su un sistema di lavoro basato sull'esecuzione dei compiti. La centralità della prestazione individuale versus la collaborazione riesco a portarla, ma posso continuare a ragionare sulla prestazione individuale, vieni alla lingua che ti faccio fare questo. E l'orientamento a un oggetto che si tira dietro la transagonistica da neonica degli insegnanti che nel momento in cui si padronisce del giochino libera tutte le sue potenzialità e che comincia a curare i suoi oggetti di mano perché devono essere bellissimi e così alla fine li mostriamo ai genitori. Cioè, mi sembra che anche l'orientamento agli oggetti come nella quattro noti prima, non nell'esame, ma nella presentazione, che vengono presentati. Lo definivano nella didattica del dirigente, cioè un cassetto nella direzione scolastica. Allora, quello che voglio dire è che può non cambiare nulla, anche cambiando tutto. Allora, questa decisione di provare non risolvere il problema, ma a suggerire piste di lavoro perché cambiando tutto, cambi qualcosa. Cioè per dare significato ad un'operazione come quella di introduzione delle lingue nella classe. I protagonisti, come vedete, sono la vecchia lavagna, gesso e lavagna tutto, che va progressivamente in pensione, la lingua, e qui una lingua complementa, ma dovete perdonare che quello tra l'altro mi è venuto contro questa, e i sistemi wireless, perché secondo me l'altro protagonista che non ci siamo mai abbastanza della trasformazione della classe in classe digitale è un dico compiuto da basso costo e ad alta connettività, attraverso il sistema wireless diventa l'elemento fondamentale del sistema di lavoro che fa termo nella vita. E allora mi sono chiesto, fate attenzione, che cosa potrebbe voler dire? Io vedo due premesse che sono un po' la cornice concettuale dell'operazione e due strategie. Le due premesse rispondono ad altrettanti freni, che secondo me sono il freno drammaturgico e il freno perceptivo. Anche qui nella strada radiografica ci sono stati momenti in cui i due treni sono stati frequentati con delle tecnologie. Mi sembra che però sia un po' di tempo che non li si frequenta più con efficacia. La linea di parere consente di tornare a frequentarli. Sono due dei treni, il treno drammaturgico e il treno perceptivo. Le due strategie prendono corpo nelle due idee della classe laboratorio e della comunità di apprendimento. Perché qui niente di nuovo dal punto di vista della ricerca didattica, ma si tratta di andare a recuperare idee validissime che appartengono al passato recente e meno recente in questa storia, e rilanciandole e declinandole nella prospettiva della lingua. Sono messo da immaginare il percorso velocemente definito, gli elementi di una drammaturgia della lingua. Che cosa c'è che mi spinge in questa direzione? C'è il lessico teatrale. C'è uno sfondo che si popola di scenari. C'è un testo che assomiglia moltissimo a una sceneggiatura, anzi, perché assomiglia moltissimo ad una scrittura di scena, come quella che si faceva nel cosiddetto nuovo teatro tra gli anni 60 e i primi anni 80, dove la figura del drammaturgo che scrive e poi gli altri mettono in scena va a ripiarsi a favore di una scrittura che nasceva sulla scena, o se non direttamente sulla scena, immediatamente nell'elettropalco prima di andare in scena. Con tutto quello che viene messo, cioè venire in primo piano, ad esempio dei treni. La performance diventa molto più importante del treni che porta alla performance. E poi ci sono i protagonisti, l'autore, gli attori, che sono autori, perché non è che ci sia proprio una grandissima differenza tra chi è autore e chi è attore. E ancora, da lessico si può ragionare sulla lezione con la lingua, qui si dovrebbe mettere a me, non entro, mi limito a indicare nella traccia del lavoro, si potrebbe ragionare sulla lezione con la lingua, sottolineandone la dimensione narrativa da una parte, si sta parlando per esempio di vista da storytelling, per un tipo da carrozzo in un livello di Maria Santi e il programma del tutto sul disco della scuola di Terri e di Milano, questo qui come due ottimi modelli di università di Padova, è una pratica molto diffusa, assolutamente interessante, non parere, a misura di è la stessa cosa che fanno gli agenti immobiliari, perché questi segnali non sono dei contabili, sono delle strutture, anche se la visita di volta, sono la visita di bambini, si muovono. E di conseguenza la dimensione performativa, la logica della performance, facendo tutta l'inno, abbiamo visto anche una dimostrazione della linea performativa come oggetto, cioè tra la performance c'è una molto forte che spinge la linea luogo di snodo di incrocio di pratiche performative. È un primo scenario. L'altro scenario, cioè quello del percettivo, consente di lavorare nella economia della vita. Queste cose stanno nell'idea progettuale del prima di sera, e cui gli amici di Ferrari sono compagni di strada, nell'economia della vita. Anche qui due elementi mi sembrano particolarmente interessanti. Il primo è un altro del secondario, che è, ecco perché è un altro termine che si dovrebbe lavorare sulla scuola degli infanti, che è, cioè, una didattica a pensare da una parte alla continuità di quell'oggetto lì così super tecnologico con l'esperienza del bambino, in tal modo, di cui parlava prima. E dall'altra parte c'è tutto il discorso relativo alla visualizzazione e alla manipolazione del fatto concetto, che dice tutto il discorso relativo all'espressione della mente, la scena della mente che si proietta fuori sullo schermo e consente di manipolare concetti come fossero oggetti rubabili e di attribuire immaginazione. Dall'altra parte la multimedialità. La multimedialità che a mio parere è sollecitata proprio nella prospettiva della modificazione dei punti di accesso alla conoscenza. Gartner, teoreticamente dice, ma Gartner in primo luogo. Qui discorso interessante, quindi la conseguenza dell'analisi dell'intelligenza multimediale è proprio la possibilità che i punti di accesso alla conoscenza. E quindi di intercettare le mix differenti di abilità e di stili cognitivi per bambino. Vado a spiegare velocemente le altre due dimensioni e chiudo. Dicevamo, allora, drammaturgia e l'economia della vita, e due immagini, la classe laboratorio della comunità di apprendimento. Il modello della classe laboratorio dice una didattica, quella con la lingua, centrata sul padre. Quali sono i metodi di questa didattica centrata sul padre? Sono i learning framework, sono la struttura collaborativa, e quali sono le pratiche di questa didattica centrata sul padre? Il file share, e non soltanto il file share, e il video. Mi pare, cioè, parlare di podcast come dicevo con Benedetti, mi pare che la linea è un bello spunto, un bel suggerimento per tornare alla giornata di classe laboratorio. Potrebbe non essere una classe laboratorio, cioè potrei utilizzare in prospettiva uno dello, se voglio fare le cose bene, la uso nella prospettiva della classe laboratorio. E l'altra dimensione evocata dall'immagine per la comunità del rendimento è l'idea di una classe centrata sul collaborare. E tutti i discorsi di Jonassen come modello che sta a monte della didattica centrata sul collaborare, i metodi dalla didattica metacognitiva al problem solving, le pratiche, la lezione dialogata, la costruzione e l'utilizzo della conoscenza. Capite che queste quattro zone sono la drammaturgia, l'economia, classe laboratorio e comunità di apprendimento, sono più o meno che un primo syllabus di contenuti da approfondire. Potrebbero essere la mappa di un corso metodologico per insegnare che cosa migliorare in maniera efficace con la lingua. Sulla base di questa riconcezione è interessante da lì. Da lì un sistema di rappresentazione, da lì un spazio di struttura collaborativa, da lì come facilitatore, sia nel senso dell'ausilio, sia nel senso del supporto. Che già fatto un piccolo intervento con delle reti di scuola che lavorano sul rapporto tra l'immagine didattica speciale, a supporto della didattica della e con la vita diversa. La LIN come amplificatore degli apprendimenti, il software dedicato va in questa direzione, come spazio di socialità, come mediatore culturale, sarebbe interessantissimo la LIN come spazio per la didattica interculturale basata sull'usazione dei contenuti. Bambini diversi che scrivono, cose diverse che compongono, altri fatti diversi condividendo lo stesso spazio, accompagnati da una attività di facilitazione riflessiva dell'insegnamento. E alla fine la LIN come ambiente di comunicazione e come è già stato detto, quindi la videoconferenza e le nuove possibilità che la LIN così concepita apre allo schooling. Io ripeto, non mi proponevo di risolvere i problemi, mi proponevo di concettualizzare una modalità problematica che va assolutamente superata, perfettamente in linea con le conclusioni di Alessandro su questo punto di vista, e tracciare una roadmap possibile che i sistemi di istruzione potrebbero provare a seguire, perché l'introduzione del LIMA in scuola non sia soltanto un'occasione di esibizione demagogica per la capacità di un paese di essere al passo dei tempi, ma si traduca effettivamente come strumento efficace del lavoro. Grazie.